24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:23 minuti ci siamo, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo della vicenda del processo al Presidente del Consiglio, Berlusconi. E vi chiediamo, secondo voi il Premier dovrebbe dimettersi come chiede l'opposizione oppure no, come dice Berlusconi stesso che dice vado avanti? Questo è il tema del sondaggio che votate su radio24.it. E da cosa iniziamo? Come al solito, i giornali in edicola. Fujitsu supervaluta il tuo vecchio server fino a 600 euro se passi a Primergy. Cambia server.it. Vi presenta in primo piano. Le vicende giudiziarie del Premier sono sempre le aperture di questo giovedì 17 febbraio. Il Premier governo fino al 2013 per il Corriere, il GIP le prove contro il Premier per Repubblica. C'è Berlusconi, io vado avanti per la Stampa. Il giornale mette in primo piano la lettera ricevuta in redazione, proiettile BR al giornale. Per il Fatto Quotidiano, noi che abbiamo inguaiato Berlusconi, parlano per la prima volta i poliziotti della questura di Milano. Questi alcuni titoli dei giornali di apertura. Il Sole sui debiti piccole e medie imprese, via la moratoria, Tremonti ora la crescita. Ma voglio partire da quale segnalazione? Quella che trovate sulla Stampa, pagina 19. Sono un deficiente, professoressa condannata. Palermo, alunno costretto a scrivere 100 volte sul proprio diario questa parola, questa frase, sono un deficiente, e la professoressa è stata condannata a un anno di carcere. È la storia che racconta Riccardo Arena da Palermo, una donna piccola, quella di la storia di Giuseppa Valido, 59 anni, insegnante oggi in pensione, che nel gennaio 2006 fece scrivere a un alunno che riteneva un bullo per 100 volte sul proprio quaderno, sono un deficiente. Perché questo ragazzo di 11 anni che cosa aveva fatto? Insieme ad altri due coetanei aveva impedito a un compagno di classe di entrare nel bagno dei maschi dicendogli tu sei una femminuccia, un gay. E allora la professoressa ha saputo questa cosa, l'ha preso da parte e gli ha detto, visto che non aveva voglia di chiedere scusa a questo ragazzino, gli ha fatto scrivere per 100 volte questa punizione. Sono un deficiente. Tra l'altro c'è questo racconto per cui per 100 volte questo ragazzo di 11 anni ha scritto sono un deficiente senza la I. E vabbè, ma questo è un altro discorso. L'alunno Discolo poi doveva portare a casa il quaderno fatto firmare dal papà per prendere coscienza e consapevolezza di quello che aveva fatto. Il papà ovviamente si è arrabbiato, ha denunciato la professoressa e ora questa condanna in primo grado peraltro era stata assolta, mentre il giudice per le udienze preliminari l'aveva assolta. Ora il PM, la procura, ha fatto ricorso ed ora c'è stato un anno di carcere. Perché che reato? Abuso dei mezzi di correzione. Questo succede a Palermo e questa storia che vi racconta la Stampa, da cui sono voluto partire. E ci fermiamo per la pubblicità. In primo piano. Ci siamo, eccoci qua, alle 7:35 minuti. Allora, che dire, oggi poco spazio, poche segnalazioni. La politica, c'è Berlusconi che avete sentito, vado avanti, e la frase che è stata strappata dai suoi collaboratori è questa: sono 17 anni che convivo con i processi, vivo sotto processo, quando arriveremo al terzo grado ne riparleremo. Mi processano da 17 anni, si vedrà quando arriveremo al terzo grado. Questo sul Corriere, ma anche su Repubblica, dove gli anni diventano 14 in questo retroscena di Francesco Bei. Sono 14 anni che vivo sotto processo, uno in più, uno in meno, non cambia nulla, anche se tutti fanno registrare che c'è stato un riavvicinamento con Tremonti, ieri la conferenza stampa sull'economia. E secondo Repubblica un altro snodo sicuramente sarà quello dell'incontro domani, la cena per i patti lateranensi, per la ricorrenza all'82esimo anniversario dei patti lateranensi in Vaticano. E infatti Repubblica scrive: il vero fronte che impensierisce di più Gianni Letta è proprio questo, il Vaticano. C'è anche un altro fronte politico, come sottolinea il Corriere della Sera, vale a dire Umberto Bossi, che certo un giorno dice, come scrive Marco cremonesi, un giorno diciamo si mostra vicino a Berlusconi, l'altro giorno alterna invece delle secchiate d'acqua gelida. Il governo andrà avanti se ha i numeri, altrimenti cade da solo. Ecco qui Umberto Bossi che alterna proprio l'abbraccio fraterno alla secchiata d'acqua gelida, un giorno sì e un giorno no. Da registrare appunto questa tregua con Tremonti, secondo La Stampa, secondo Amedeo La Mattina, a pagina 3 in questo retroscena della politica, la versione cattiva e maliziosa che nel giro stretto del premier è questa la versione. Tremonti si è messo paura dalla campagna scatenata da Giuliano Ferrara, dal Giornale, da Libero, contro l'amico del Giaguaro che trama per prendere il posto del Cavaliere. Tanto che oggi c'è una lettera di Stefania Craxi, che è sottosegretaria agli esteri, sul Corriere della Sera, dicendo: caro Giuliano Ferrara, lascia stare Tremonti che è fedele a Berlusconi. E oggi infatti sul Foglio in prima pagina c'è un editoriale firmato dall'Elefantino, dunque da Giuliano Ferrara. Ieri Tremonti e il Cavaliere sembravano una coppia celebre dello show business alla conferenza stampa sulla crescita di Palazzo Chigi. Si scambiavano i ruoli davanti a una platea in cui eccelleva qualche cronista testone. E perché? Perché ci sono stati due cronisti, uno del Messaggero che ha provato a fare una domanda su Ruby e Berlusconi gli ha detto: lei non faccia il birichino, sa? E poi invece l'ultimo di Bloomberg TV, che gli ha fatto una domanda riguardante il Mario Draghi e la possibile nomina alla BCE e l'inchiesta Ruby, gli ha chiesto Bloomberg, il giornalista di Bloomberg: non è che questa inchiesta potrebbe rovinare la candidatura di Draghi? E Berlusconi gli ha risposto: lei non è compos sui, e poi vada a farselo tradurre, cioè lei non è in sé, questo gli ha detto Berlusconi, che per Luca Telese sul Fatto insomma ha insultato un giornalista. Per Giuliano Ferrara è l'elegantemente, così gli ha elegantemente obiettato Berlusconi: lei non è compos sui, a un giornalista che gli ha fatto una domanda. Per la verità sull'inchiesta Ruby ci sono delle novità oggi sui vari giornali, il Corriere ma anche Repubblica, tutti insomma più o meno pubblicano le carte del GIP. Giuseppe Guastella, pagina 5 del Corriere: Ruby, le telefonate, i bonifici, ecco le carte del giudizio immediato, le conclusioni del GIP. Cristina Dicenzo, che ha rinviato giudizio Berlusconi, che ha deciso il processo per il Cavaliere, sono queste. Silvio Berlusconi, nelle carte del GIP, aveva l'evidente scopo di nascondere il reato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento con una minorenne, voleva assicurarsene l'impunità che la giovane e poco controllabile Karima Al-Marug ben avrebbe potuto porre a rischio quando fece pressione sulla questura di Milano affinché la 17enne marocchina fosse affidata con una procedura macroscopicamente anomala alla consigliera regionale Nicole Minetti. Questo c'è scritto in sostanza nel 27 pagine del decreto che ha disposto il processo con rito immediato, giudizio immediato per Silvio Berlusconi. Parlano invece sul Fatto Quotidiano, a Ferruccio Sansa, per la prima volta parla uno dei poliziotti sotto anonimato che era quella sera in questura a Milano. Pagina 4, così la polizia ha resistito al caimano, questo è il titolo dell'articolo del Fatto. Lo chiameremo Giorgio, lo si incontra lontano dalla questura, anzi da qualsiasi commissariato. Ora dice: non sapete quante volte ho maledetto il giorno che mi sono segnato di turno quella notte, voi non avete idea di quante rogne abbiamo avuto. Tra l'altro parla questo poliziotto, beh, puoi immaginare, ci sono anche dei nomi di pezzi grossi che compaiono degli atti, non sono indagati ma la vicenda è complicata. E poi questo poliziotto racconta: guardi, tutto è filato liscio fino a quel giorno, fino alle 18:15, arriva Ruby, l'accompagnano in questura, le telefonate del PM dei minori Anna Maria Fiorillo, tutto ok, ma alle 21:38 arriva una strana chiamata. Era Michel Conceição dos Santos Oliveira che ha chiamato il 113, ha chiesto notizie di Ruby, ma sa, di gente così ne gira parecchia. Poi verso mezzanotte arriva quella telefonata. Vediamo la dottoressa Giorgia Iafrate sbiancare in volto. Era il capo gabinetto della questura Pietro Stuni che le riferiva della telefonata di Berlusconi. A quel punto è successo il finimondo. E racconta ancora questo poliziotto: provate a mettervi nei nostri panni, un funzionario di polizia come la dottoressa Iafrate riceve 12 telefonate dal capo di gabinetto della questura Ostuni, che a sua volta è chiamato da Berlusconi. Non è facile resistere, anche se in qualche modo Iafrate ci ha provato. E poi ancora, quindi le chiamate del premier che tira fuori Mubarak. Alla fine ci mancava solo quella consigliera regionale vestita da pin-up. Ecco, glielo devo dire, sono tanti anni che lavoro in polizia. Lasciamo perdere i reati di Berlusconi, non mi interessa, non sono né di destra né di sinistra. Ma l'impressione è stata che ci abbiano trattati senza riguardo. Ma che cazzo credono che siamo? Un circo Barnum? Un teatrino di avanspettacolo? Vede, noi a fine mese ci portiamo a casa 1500 euro e quando usciamo con le volanti non sappiamo mai a cosa andiamo incontro. Ecco, dopo aver visto certe cose ho pensato di mollare tutto. Ma poi è arrivata la decisione del GIP, il processo immediato, e ho ritrovato fiducia. Le indagini che abbiamo fatto noi poliziotti hanno retto all'esame del giudice. Io non spero che Berlusconi sia condannato, conclude questo poliziotto. Mi basta vedere che la legge è uguale per tutti, anche grazie al nostro lavoro. Questo racconto affidato al Fatto Quotidiano di un agente di polizia che era in servizio in questura. Ora che il clima sia di grande tensione, lo testimonia anche la prima pagina del Giornale, è arrivata una lettera con 5 proiettili che vengono fotografati e messi in prima pagina, anche riuscirla a trovare, la pagina del Giornale, eccolo qua, il Giornale, proiettile BR al Giornale, minacce eversive a noi, a Berlusconi. Con Alessandro Sallusti, il direttore che scrive una pallottola, un volantino che annuncia la lotta armata con la stella a 5 punte, quella delle BR, il tutto in una busta consegnata ieri a noi del Giornale. Siamo abituati a ricevere minacce, non so se si tratti di veri brigatisti già organizzati, ma certo questa volta c'è qualcosa di più. Non tutti i pazzi hanno la possibilità di reperire facilmente quel tipo di munizione, non tutti i cretini condensano in poche righe un teorema politico per addetti ai lavori. Attenti a voi, a Berlusconi, salvato in passato da D'Alema, che fece il bunga bunga con la classe operaia, firmato BR Nucleo Galesi. Questa è la lettera ricevuta dal Giornale, mentre l'Unità pone questo problema un po' legato a quello che diceva Repubblica, dicendo domani ci sarà l'incontro con il Vaticano. L'Unità la traduce in questa domanda, pagina 16. E ora chi stringerà la mano a Mr. Berlusconi? Il primo appuntamento con la Santa Sede, poi forse Obama, Merkel e Sarkozy. Ma l'Unità si chiede con Umberto De Giovannangeli: ci sarà qualcuno che poserà con lui nella foto di gruppo del prossimo G8, visto che è un caso da imbarazzo diplomatico il premier del Bunga Bunga? Così la pone l'Unità. Che politicamente non stiano bene molti partiti politici, beh, dimostrato per l'ennesimo giorno da Futuro e Libertà, la compagine di Fini. Ieri ha perso un senatore, Menardi, Giuseppe Menardi, e la perdita di questo senatore è tutt'altro che secondaria, perché perdendo questo senatore il numero di senatori al Senato dei finiani scende a 9, e dunque non sono necessari per fare un gruppo, non sono sufficienti per fare un gruppo, perché il gruppo al Senato ha bisogno di almeno 10 senatori. Gruppo senza numeri al Senato, Menardi lascia, FLI in frantumi, così su Repubblica, mentre sul Giornale, scusate, sul Corriere della Sera, invidie, sospetti, gelosie, ecco una storia del partito mai nato, futuristi lacerati dal potere al guerriero Bocchino, Urso accusa Fini di cinismo, l'inquietudine dei moderati. Tra l'altro, secondo il Messaggero, ci sono già dei finiani dati per certi, sono Barbareschi, il solito Barbareschi, e Rosso, due deputati già dati per certi, secondo Alberto Gentile a pagina 7, come due parlamentari che abbandoneranno FLI per tornare nel Popolo della Libertà. Per la verità sono 7 i nomi, secondo il Messaggero, quasi certi, tra cui appunto Barbareschi, Rosso, uno dell'MPA che si chiama Roberto Commercio, di Onorevole. Insomma, 7 transfughi che potrebbero andare a aumentare il numero della maggioranza fino a 325. Staremo a vedere. Ieri, come detto, il Presidente del Consiglio ha parlato di economia, soprattutto insieme a Tremonti. Ora pensiamo alla crescita, così il titolo del Sole 24 Ore a pagina 3, presentata la nuova scadenza per le PMI. Ieri era anche il giorno dell'approvazione del mille proroghe, e anche novità sul federalismo, sul Sole 24 Ore, dopo il traffico. In primo piano, ai comuni l'IVA sui consumi. Questa è la novità che Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore, pagina 5, descrive sul nuovo testo sul federalismo municipale. Ora, questo aggettivo nuovo sul testo del federalismo municipale effettivamente l'abbiamo sentito parecchie volte. E in effetti Eugenio Bruno scrive: nella fabbrica di San Pietro del federalismo i lavori non si fermano mai. Nel decreto attuativo sul fisco municipale che il governo ha inviato alle Camere è apparsa la precisazione che l'IVA da distribuire ai comuni sarà legata ai consumi. Il perché di tutto questo lo spiegherà il ministro Calderoli martedì prossimo al Senato e a inizio marzo a Montecitorio. Se con o senza voto di fiducia si vedrà, ha detto il responsabile della semplificazione. Tutto ciò mentre in bicamerale è ufficialmente partito l'esame del provvedimento su tributi regionali e costi standard sanitari. Insomma, una nuova roadmap del federalismo che trovate tutta spiegata sul Sole 24 Ore, che segue con attenzione sempre le novità delle varie elaborazioni dei testi che vengono presentati sul federalismo. Tra l'altro, piccolo passo indietro, sul mille proroghe approvato, sapete che c'è questo provvedimento, ieri mi ha fatto molto arrabbiare la rassegna stampa, uno di questi emendamenti che prevede che verranno rinviati i tagli alle politica locale, agli assessori, ai consiglieri municipali, che dovevano entrare in vigore con le prossime elezioni amministrative. Avremo ospite, ve lo dico, per l'intervista alle 8:20, il vice sindaco di Roma Mauro Cutruffo, che è colui che ha proposto in Parlamento e anche parlamentare questo emendamento. Ci spiegherà insomma come è, perché ha partorito questo emendamento che ritarda i tagli alla politica. Trovate di attualità internazionale molto dell'analisi di quello che sta succedendo in Libia, dove esplode la protesta anti-Gheddafi nelle città, nelle strade di Bengasi. Secondo Repubblica, tutto nasce dalla protesta per chiedere la liberazione di un avvocato, Feti Tarbell, un legale che è attivista per i diritti umani. Tra l'altro oggi viene segnata la giornata della rabbia e quindi bisogna fare attenzione. Mentre sul fronte immigrazione, il Corriere della Sera racconta in maniera anche spassosa questa vicenda, lo fa Felice Cavallaro, che hanno combinato alcuni clandestini, alcuni insomma migranti, immigrati, chiamateli come volete, di quelli sbarcati a Lampedusa. E beh, hanno fatto un bel banchetto e bevute a Villa Baglioni. Claudio Baglioni, il cantante che ha una casa a Lampedusa, hanno saltato il muretto e sono stati lì in sei, pare. Sono andati a farsi un bel banchetto e bevute a casa Baglioni. In sei occupano la villa sull'isola temporaneamente. Si sono scatenati alla caccia di buon cibo, si sono accontentati di qualche scatoletta di foie gras, l'hanno però innaffiata con ottimi rossi scovati in una ricca cantina. Insomma, hanno passato un paio di belle serate, hanno dormito lì senza fare danni, questo dice la moglie del cantante, perché ovviamente un giardiniere se n'è accorto, poi loro hanno lasciato la villa. Ma insomma, la villa sulla costa di Claudio Baglioni era una tentazione nell'area di Cala Creta, Lampedusa, per alcuni tunisini che hanno passato lì una notte e si sono un po' divertiti. Oh, per quel che riguarda le altre segnalazioni, voglio andare a questa sulla stampa. Egle Santolini va a Collobiano, in provincia di Vercelli, per raccontare il paese dei più onesti d'Italia. Paghiamo tutti il canone Rai. 37 abbonamenti su 37 famiglie. È il record nazionale. 100%. A Collobiano, complimenti, tutti pagate il canone della Rai. E c'è questo reportage sulla stampa. Vi segnalo anche per la vicenda Sanremo, sì, salto la vicenda Madoff, che viene intervistato in carcere, ma ve lo trovate sul Corriere e su Repubblica. Sanremo, ebbene sì, è arrivato il bacio tra Belen e Elisabetta Canalis, il Secolo XIX, che è segnalato quest'anno per essere molto critico, nonostante sia il giornale di riferimento della Liguria. La serata, Eli e Belen, finte amiche per dovere di copione, questo bacio finto, complimenti e bacetti sul palco tra le due. E poi c'è la vicenda che, sì, sapete, il cachet di Benigni. Questa sera c'è Benigni, la Lega è insorta, 200.000 euro, forse 250.000, secondo il Quotidiano Nazionale. Eccolo qui, Benigni ci racconta l'inno per 200-250.000 euro, pagina 3. E il Secolo XIX raggiunge Benigni, Paolo Crecchi lo chiama. Signor Benigni, perché gratis da Fabio Fazio e non al Festival di Sanremo? Non ho tempo, la risposta di Benigni. Ma come? A satireggiare su Berlusconi si va per sacrosanto principio, a difendere la libertà d'espressione o per, per magnificare l'inno di Mameli si pretendono 250.000 euro? Adesso non ho la testa per parlare, la seconda lapidaria risposta di Benigni. Insistiamo, signor premio Oscar. La libertà di stampa che le sta così a cuore si tutela anche rispondendo alle domande. Su, perché 200.000 euro? Non saprei cosa dire. Clic. E finisce la telefonata tra Paolo Crecchi del secolo XIX e Roberto Benigni. Ancora mi invitate a leggere la Gazzetta dello Sport di ieri, quella che raccontava la vittoria sacrosanta del Tottenham a Milano, a San Siro, contro il Milan. Non l'ho fatto, certo, però oggi, tra l'altro, c'è ancora una sconfitta in italiana, la Roma, che ha perso in casa con lo Shakhtar Donetsk. Ci sono state anche due partite di campionato, una è il derby vinto dal Genoa sulla Sampdoria, l'altra non me la ricordo, e mentre c'è da dire che cosa succede sui giornali inglesi, sentite qui. Allora, va bene, il Milan ha perso, Gattuso ha perso la testa, animali, mafiosi, ritardati mentali, balordi. Così i tabloid inglesi hanno definito, non tanto in questo caso i giocatori del Milan o Gattuso, ma proprio gli italiani, no? A pagina 16 della Gazzetta, eccolo qua, i tabloid inglesi. Balordi 0, eroi 1. Il Milan sono i Milanimals, gli animali. Gattuso un cane. E poi ecco i mafiosi del Milan, i balordi, i ritardati mentali. Questi sono i tabloid inglesi come hanno descritto una partita di calcio. Evviva! Bene, ci fermiamo. Il GR, voi votate il sondaggio, parliamo di Berlusconi, il caso Ruby, dovrebbe dimettersi secondo voi come chiede l'opposizione oppure no? Ne parliamo alle 8.30, ora il GR. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.21, voglio salutare il vice sindaco di Roma e senatore Mauro Cutrufo. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato, l'abbiamo già chiamato un'altra volta. Stavolta l'abbiamo chiamata perché vogliamo capire qualcosa che ci ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia, no, nei giorni scorsi. Allora, nel decreto mille proroghe che è stato approvato ieri, insomma, c'è un emendamento a sua firma che rinvia dei tagli alle amministrazioni locali che dovevano subentrare con le prossime amministrative, cioè comuni con oltre 1 milione di abitanti dovevano arrivare da 60 a 48 consiglieri comunali. Non sarà più così per via di un suo emendamento, senatore? Dunque, guardi, ed è una cosa assolutamente logica, l'importante è non farsi prendere dal populismo che regna in questo paese ormai da 15 anni. Mm. E che appunto giornali qualificati non vi partecipino. Io ho fatto prima il taglio delle spese per i compensi ai consiglieri comunali e ai consiglieri municipali, sì, che comunque non cambiano di numero. Mentre per quello che riguarda la città capitale, che come ho detto tante altre volte è 12 volte più grande di Parigi ed è la città più grande d'Europa, se dovessimo fare un'equazione, popolazione, sono 3 milioni gli abitanti di Roma, sì, e territorio 130.000 ettari, Milano entra in uno solo dei 19 municipi di Roma, noi teoricamente dovremmo avere tanti consiglieri comunali quanti ne ha Parigi, cioè 128, perché Parigi ha 128 consiglieri comunali. Sì. Ed è 12 volte più piccola e ha 25 assessori. Ma perché? Lungi da questa cosa, che la trovo una indecente esagerazione, Roma con questo emendamento rimane a 60 consiglieri comunali come dal 1940. Come anche Milano. Però si parlava tanto. No, come le città metropolitane, perché quando c'erano le città metropolitane, ecco perché c'è Milano. Però le città metropolitane. E certo. Ecco, però si diceva, anche il Sole 24 Ore 3 giorni fa diceva trionfalmente: oh, finalmente entreranno, salvo ripensamenti improbabili dell'ultimo momento, un po' di tagli ai costi, esatto, della politica. Prima abbiamo fatto approvare l'emendamento dei tagli, è vero. No, nel senso, interverranno dei tagli, nel senso, i consiglieri comunali scenderanno a 48 da 60. No, noi tagli li abbiamo fatti finanziari, perché se io scendo a 48 consiglieri ci saranno interi quartieri di Roma che sono come Ravenna, come Bologna. Io bisogna comprendere che cos'è senza rappresentanza. Sì. È come se lei a Bologna non avesse un consigliere comunale. Vabbè. Quindi lei dice, cioè, non erano tagli impropri, quello, cioè scendere da 60 a 48 consiglieri per le però grandi abbiamo città. Abbiamo tagliato le somme che riguardano i rimborsi dei consiglieri. Quindi i costi sono quelli. Noi siamo sotto del 10% alla spesa storica. Se no non me l'avrebbero approvato l'emendamento. Io ho prima fatto approvare l'emendamento del taglio ai rimborsi ai consiglieri e poi l'emendamento per mantenere, non aumentare, mantenere a 60 i consiglieri. Un altro elemento di questo emendamento è che ci sarà la possibilità di aumentare da 12 a 15 gli assessori, cioè addirittura 3 in più rispetto agli attuali, per esempio per Roma. E qualcuno dice, beh, insomma, lei è oltre senatore è il vice sindaco di Roma, è chiaro che vuole punta una giunta un po' più ampia magari, no? Dunque, guardi, per i motivi che ho detto prima, Roma ha sempre avuto 16 assessori, sempre. Veltroni aveva 16 assessori e riportarla a 15 come era 5 mesi fa, 7 no, questo no, questo 2 anni fa, è una cosa abbastanza normale per una città come questa che nel suo territorio contiene insieme Buenos Aires, il Cairo, New York e Barcellona, lo sanno i pochi, ma io ho scritto un libro su questo che è la quarta capitale, edito da Cangemi, basta comprarlo per capire quello che io sto spiegando. Insomma, lei dice è un po' populismo quello di pensare... Assolutamente sì, perché spese in più non ce ne sono. È la manutenzione di quello che c'è sempre stato fin dal 1948 in relazione ai 60 consiglieri comunali e quello che c'è sempre stato dal 1993 per quello che riguarda gli assessori, non è quindi una novità. La novità è che io scendo del 10% rispetto alle spese. Sa che cosa, senatore? Ma questi emendamenti però non sono a firma sua. È che nel mille proroghe, per esempio, c'è un emendamento che fa slittare di 6 mesi le multe per le quote latte. Un emendamento, io lo devo dire, dei senatori Gasbarri del Partito Democratico, che abbiamo chiamato ieri ma non ha voluto intervenire, il senatore Casoli del Popolo della Libertà, quindi bipartisan, che emenda con 1.000 euro di multe i manifesti abusivi che i politici avrebbero dovuto pagare, i partiti politici, per un esborso di 100 milioni. Capisce allora, senatore? Cioè, l'idea è che a volte qualcuno della casta ci metta qualche emendamento per salvarsi. Io questo non lo posso escludere, evidentemente, come vede, appunto, l'ha detto lei, la ringrazio, non sono a mia firma, ma come le ho detto, questo emendamento per la capitale segue la logica che le ho descritto, prima il risparmio e poi il mantenimento della rappresentanza per i cittadini. Un'ultima cosa, senatori e parlamentari sono troppi, perché si dice sempre di sì, tagliamoli, ma poi sono sempre così, sono sempre. Guardi, quelli. Io sono quello che ha contribuito a fare la riforma che tagliava il numero dei parlamentari, che diminuiva le camere da 2 a 1, faceva il Senato delle regioni, l'abbiamo votata, è una riforma costituzionale, 4 volte, 2 volte alla Camera, 2 volte al Parlamento, poi Prodi in campagna elettorale ne ha fatto un cavallo di battaglia e il referendum contemporaneo alla campagna elettorale, i cittadini italiani che sono quelli che chiedono queste diminuzioni hanno votato contro e non è passata la grande riforma che propose il governo. Cioè sono gli italiani che non hanno voluto tagliare Senato e Camera. In quel referendum gli italiani si espressero nel modo in cui le ho spiegate, come è noto. La riforma, esattamente come lei la immagina o la descrive, fu presentata. I famosi saggi di Assago, mi pare che si chiamavano, eccetera, eccetera. Sì. Taglio di quasi il 50% dei parlamentari, di una sola Camera, senatore e regioni, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure Prodi e il PD ne fecero un cavallo di battaglia in campagna elettorale e mentre fu eletto Prodi, quindi prese la maggioranza in quel caso seppure solo per 20.000 voti in più, così si disse, e gli italiani mentre che c'erano bocciarono questo referendum, che è la dimostrazione che col populismo non si possono fare riforme. La ringrazio, senatore e vice sindaco di Roma, Mauro Cutrufo. Buona giornata. La pubblicità e poi andiamo al nostro sondaggio. Il nostro sondaggio è molto semplice. Berlusconi, secondo voi, viste le questioni giudiziarie, dovrebbe dimettersi come chiede l'opposizione oppure no, come dice lui, dice andiamo assolutamente avanti. Ne parliamo tra poco, votate su radio24.it per intervenire 800 24 0024. 24 mattino. Per il momento su radio24.it per il 65% dei nostri ascoltatori Berlusconi dovrebbe dimettersi, è il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Secondo voi Berlusconi si dovrebbe dimettere? Questo vi chiediamo. Lui dice, questo del retroscena dei giornali, sono 17 anni che convivo coi processi, che vivo sotto processo, quando arriveremo al terzo grado ne riparleremo. Voglio salutare l'onorevole Osvaldo Napoli del Popolo della Libertà. Buongiorno, ben ritrovato onorevole. Grazie a voi dell'invito. Così come l'onorevole Massimo Donadi dell'Italia dei Valori. Buongiorno, ben ritrovato anche a lei. Grazie, buongiorno agli ascoltatori. Senta, onorevole Donadi, intanto chiedo a lei, ma perché Berlusconi dovrebbe dimettersi se non si è neanche tenuto per il momento il processo? Nel senso, dovesse poi andare a processo, dovesse risultare innocente, se nel frattempo si fosse dimesso, che succede? Gli si ridà la carica? Il punto è che per noi non si dovrebbe dimettere perché è sotto processo, si dovrebbe dimettere per un insieme di fatti, si dovrebbe dimettere perché comunque è uscita dagli atti della Procura di Milano la certezza, al di là delle responsabilità penali, di un uomo che tiene una condotta di vita che è esattamente l'opposto di quello che prescrive la Costituzione, che dice che chi ricopre cariche pubbliche lo deve fare con dignità e decoro. Ci pare che nel comportamento del Presidente del Consiglio ci sia tutt'altro che la dignità e il decoro. Cioè le dimissioni perché fa delle feste, insomma. No, lasciamo perdere l'ironia, perché in questo momento davvero non ce n'è, no, per carità, magari serve anche a drammatizzare, ma la situazione è purtroppo seria e grave. Dimissioni perché questi comportamenti stanno creando un imbarazzo infinito all'Italia, perché stanno costringendo il Presidente del Consiglio, più di quanto non faccia di solito, a girare per il paese come una specie di piromane incendiario che sta ormai creando un conflitto insostenibile tra i poteri dello Stato, attaccando la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, le opposizioni, creando un clima da guerra civile, perché questo suo isolamento sta isolando l'Italia a livello internazionale. Non abbiamo più alcuna credibilità con le grandi cancellerie occidentali. Ormai, al di là di Gheddafi e di Putin, Berlusconi è un uomo solo, ed è solo purtroppo l'uomo che rappresenta l'Italia, e oggi il paese che ha il terzo debito pubblico del mondo non può permettersi di essere rappresentato da un leader screditato. Per questi motivi, insomma, voi dite, dovrebbe dimettersi. Io, onorevole Napoli, oggi l'Unità si chiede, ma chi stringerà più la mano a Silvio Berlusconi? Cioè si pone questo problema, chi lo affiancherà per esempio a fare le foto al G8? Chi potrebbe stringere la mano dei grandi leader? I grandi leader guardano il risultato democratico di una scelta del Presidente del Consiglio di un paese. E aggiungo, il paese ha scelto Berlusconi sia con elezioni libere, e ha scelto Berlusconi il Parlamento italiano. Quando devo dire al collega Donati, quando piaccia o non piaccia, loro vogliono mandare a casa un Presidente del Consiglio che si chiama in questo caso Berlusconi, non su un dato di una maggioranza. Abbiamo fatto 8 fiducie negli ultimi 6 mesi, ma negli ultimi 2 chiedo scusa, negli ultimi 2 mesi 3 più una, di modo non cambia nulla sostanzialmente. 3 fiducie, 4 fiducie, non sono riusciti una volta a mandarci giù. Allora io dico questo, ma questo è un paese di cui molto spesso, compreso Donadi in maniera corretta, capisco bene l'idea, se Dio vuole non abbiamo sia io che lui dei rapporti di scontro personali, ma sul dato politico, bene, molto spesso si riempie la parola di democrazia. La democrazia significa anche numeri. Questi numeri in Parlamento non riescono a averlo, loro pretendono di mandare a casa Berlusconi in base ad una per via giudiziaria. Ma aggiungo, però, se lei mi permetta, ha usato Donati usciti degli atti tratti di una condotta di vita. Devo dire, una dichiarazione di un giustizialismo che appartiene all'Italia dei Valori, anche questo ognuno si comporta come meglio crede, però tento dire, ma stiamo mica scherzando. Queste sono le accuse politiche. Siamo all'inizio di un procedimento di un pubblico ministero a cui siamo ricaduti come Tangentopoli, a cui tu mandi a casa le persone senza nemmeno andare in primo giudizio. Però onorevole Napoli, non sarebbe più semplice messa così, cioè in maniera molto banale, c'è un processo il 6 di aprile che inizia, Berlusconi si presenta, se è innocente verrà giudicato innocente, se è colpevole verrà condannato, mentre il mio timore che si legge ai giornali è che per esempio il 6 aprile Berlusconi non si presenterà. Però le faccio una domanda, mi pare che giustamente, su questo credo che anche Donati sia d'accordo, le normative di legge non ti danno la possibilità di usare la tua difesa come meglio credi. Se rimani nelle normative di legge, gli avvocati del Premier in questo caso, come gli avvocati di qualsiasi imputato, richiede di presentarsi o non presentarsi e che sia il metodo migliore per riuscire ad avere dei risultati giusti o sbagliati nei confronti di qualsiasi tipo di imputato, richiederà di farlo. Quindi la difesa, come l'accusa, ritenuto di un anno di intercettazioni, un anno di fotografie, un anno qua e dieci ore... Userà le sue armi. Voglio dire, ognuno usa la difesa nell'ambito della normativa legislativa come meglio crede. Certo, certo, questo sì. Onorevole Donati, non dovesse presentarsi Berlusconi, ma dovesse dire, non so, appellarsi, per esempio, sì, ci sono varie ipotesi che già ci sono sui giornali, tra questa anche la denuncia per attentato alla Costituzione, oppure opporsi perché sarebbe il Tribunale dei Ministri e non la Procura di Milano competente. Insomma, questa difesa non è una trova legittima, cioè utilizzare le armi che il codice penale prevede. Vede per i difensori. Allora diciamo che come ogni cittadino italiano Berlusconi ha diritto di usare e di utilizzare nella difesa processuale tutti gli strumenti che il codice gli consente, poi ci sono altri strumenti, lei ne ha citato uno, quello di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato che già un normale cittadino non ha, e qui al di là della battuta è evidente che Berlusconi non è da questo punto di vista un normale cittadino perché è il Presidente del Consiglio. Ma è evidente che qui già si usa strumentalmente un potere costituzionale per finalità che sono di interesse personale, mi spiego meglio. Sollevare un conflitto di attribuzioni per dire che la competenza è del Consiglio del Tribunale dei Ministri è una clamorosa forzatura dei compiti della Camera, perché la Camera ha il potere legislativo, non ha il potere di quarto grado di giudizio rispetto ai tribunali per dire di chi è la competenza. Di chi è la competenza? Se sia del Tribunale ordinario o del Tribunale dei Ministri, che comunque è un tribunale ordinario, nel senso che sono magistrati, ecco, certo. Non è che... sono comunque magistrati. È compito dell'ordinamento giudiziario che il Parlamento, esprimendo una volontà politica, cerchi di sovvertire questo risultato è già un'aberrazione del diritto. Ma perché lo fanno? Lo fanno per un motivo semplicissimo, perché siccome non esiste più nel nostro ordinamento giuridico l'autorizzazione a procedere, salvo che per i reati che si fanno davanti al Tribunale dei Ministri, la loro speranza è di arrivare lì in modo che il Tribunale dei Ministri sia costretto a chiedere l'autorizzazione a procedere al Parlamento per potergli dire di no. E allora questa non rientra tra le forme normali in cui un imputato si deve difendere. Allora io vorrei sentire, sono tanti gli ascoltatori, vi prego di essere brevi, insomma dite la vostra, il tema è tanto, è molto semplice, dovrebbe dimettersi oppure no. Federico da Milano, buongiorno, che dice? Buongiorno, ma io sarò molto conciso e rapido, io volevo solo dire una cosa, che nel mondo dell'informazione si stanno secondo me mischiando un po' i campi, politico, giudiziario, etico, morale. Allora, una cosa però è chiara, il Presidente del Consiglio in quanto tale sta usando e abusando del proprio ruolo istituzionale per farsi scudo dei propri problemi che all'esterno un normale cittadino della Repubblica Italiana affronterebbe recandosi in tribunale davanti ad un giudice e non avrebbe alternative. Quindi secondo lei dovrebbe dimettersi, posso tradurla così? Cioè è lampante la cosa, perché sta usando... È lampante, sta usando il proprio ruolo istituzionale come scudo personale di difesa per non recarsi in tribunale. Ma questo l'ha dichiarato lui, cioè l'ha detto lui che lo vuole fare, più volte l'ha anche detto. Va bene, Federico, la ringrazio, devo andare alle informazioni sul traffico e poi entriamo. No, le informazioni sul traffico tra un attimo. Allora, Giuseppe da Cesena, buongiorno. Buongiorno. E che eco c'è, spaventosa. Giuseppe, faccio una piccola premessa, nel senso che io sono assolutamente apolitico, nel senso sono 15 anni che non voto. Però dico soltanto questo, che assolutamente Berlusconi dovrebbe mettersi, ma non per il caso Ruby, perché il caso Ruby, francamente, lo trovo una buffonata. Il problema è che ci sono stati processi a suo carico molto più gravi, ai quali lui non si è presentato. Alcuni sono caduti in prescrizione, altri sono andati a finire perché per decorrenza dei termini, altri perché comunque non si sistemano i fatti. Però il fatto grave di tutto questo è che purtroppo adesso la sinistra sta cavalcando quest'onda su una cosa che francamente è ridicola. Quando ci sono dei casi gravi di corruzione e altro, tipo il caso Mills, che è un caso clamoroso, dove viene condannato il corrotto ma non il corruttore, cioè francamente mi sembra una barzelletta. Dico solo poi, mi scusi, prendo ancora un minuto, dico soltanto che poi la cosa che francamente trovo imbarazzante che si continua a mentire dicendo che Berlusconi, da quando è entrato in politica, lo stanno continuando a condannare i giudici. Non è vero, condannare, cioè, già da prima lui aveva dei processi a carico e lui entrando in politica si è scavallato tutti questi va bene, processi. Grazie Giuseppe, le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È il 66% di voi che per il momento votando dice dovrebbe dimettersi. C'è da dire che sui giornali bookmaker inglesi, sapete che in Inghilterra si scommette su tutto, no? Sono aperte le scommesse, viene pagata meglio. La condanna, essendo pagata meglio, vuol dire che viene giudicata meno probabile, mentre l'assoluzione per Berlusconi viene pagata meno e dunque viene data per più probabile l'assoluzione per Silvio Berlusconi. Questo leggo dai giornali. Onorevole Napoli, le chiedo, sinceramente questa sensazione di arroccamento, anche ieri c'era questa conferenza stampa sull'economia, insomma c'è il Presidente del Consiglio, un paio di domande sulla vicenda Ruby, rispondeva dicendo non faccia il birichino, cioè non rispondere, questo un po' arroccarsi, chiudersi. Berlusconi fa bene nella sua qualità di Presidente del Consiglio a non rispondere più ad una situazione di gossip o chiamiamola come volete per quanto riguarda Ruby. Il Presidente del Consiglio deve fare il Presidente del Consiglio e in questo caso deve ricominciare. Ma non sul gossip, però sull'inchiesta. Sull'inchiesta. Ma mi pare che sull'inchiesta quello che è stato fatto, c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio. Prendiamo atto che c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio. Noi ci troviamo sui giornali, compreso ieri, decine di pagine di intercettazioni personali sulla sua vita personale, ma come di qualsiasi altro cittadino, sui giornali. Nessuno dice nulla. Guardi, mi scusi una battuta, per quanto riguarda vero o falso che sia, Brigandì, se eventualmente l'ha fatto nel Consiglio Superiore della Magistratura, l'hanno beccato nel giro di 3 minuti. Non l'abbiamo beccato in 20 anni. Brigandì, diciamolo, Brigandì è stato accusato da qualcuno di avere passato al giornale quel dossier sulla Ilda Boccassini. Esatto, di non l'abbiamo beccato in 20 anni nessuno di quelli che hanno esportato all'esterno dalla procura dei documenti che sono teoricamente, ripeto, segreti. Ma aggiungo, nella richiesta fatta in Parlamento per quanto riguarda Berlusconi da parte della procura della Repubblica di Milano, bene, sono arrivate 400 pagine, 400, quando ne bastavano 2, ma sono arrivate 400 pagine perché dovevano, come dire, sotto un certo aspetto, salvare il fatto che Repubblica, anche qua, giusto o sbagliato che sia, non entro in merito, abbia pubblicato in maniera anticipata tutti quanti i verbali e così via. Cioè, la procura però che se si lei mi permetta, volevo rispondere a quel primo radioascoltatore quando dice lampante che lui vuole questo e quest'altro. Ecco, ascolti, piaccia o non piaccia, i numeri parlano chiaro. Non esiste persona al mondo, al di là che prima o dopo avesse avuto qualcosa, non qualcosa e il resto. Bene, Berlusconi ha 105 procedimenti avviati, 1000 magistrati coinvolti, 530 perquisizioni delle proprie aziende, 2560 udienze, 300 avvocati, 28 processi. Scusate, voi questo ritenete un fatto normale? No, che una persona abbia un carico di questo genere complessivamente? In Italia non c'è stato mai nessuno che avesse, ma nel mondo, quindi che ci sia stato una persona. persecuzione nei confronti del Premier. No, ma non entriamo sopra, però sui numeri. No, ma certo, però sui numeri poi sono sempre molto contestati questi numeri. Restiamo a un numero invece preciso sul quale vorrei fare una domanda all'onorevole Donati dell'Italia dei Valori. Il numero è che effettivamente i voti alla Camera, i voti al Senato, i voti in Parlamento non ci sono per almeno fino adesso. Le fiducie effettivamente hanno dato ragione al governo Berlusconi, e quindi l'accusa che vi si fa è: siccome non riuscite ad abbatterlo democraticamente con il voto, perché Berlusconi è stato eletto dal popolo, ecco che si usano dei mezzi di altro tipo. Onorevole Donati. L'opposizione fa il suo dovere. Noi riteniamo, e l'ho detto prima, che ci troviamo di fronte a un comportamento che lede l'immagine del paese, crea un clima da guerra civile, ha creato ormai da 6 mesi la totale paralisi dell'azione di governo e dell'azione parlamentare. Ci troviamo, per usare un termine che è stato caro al centrodestra, in una situazione che ormai è conclamata da tutti i sondaggi, dove 2 italiani su 3 non hanno più nessuna fiducia nel Presidente del Consiglio. Ci troviamo in una situazione dove, se oggi si tornasse a votare, le forze che si definiscono maggioranza in nessun sondaggio sommate vanno oltre il 40% dei consensi. Però sai, i sondaggi è un insieme di circostanze. Noi riteniamo che questo governo sia totalmente delegittimato. Certo, ha ancora una maggioranza, poi lasciamo perdere raccolta come alla Camera, ma è una maggioranza virtuale. Su questo onorevole Napoli, cosa c'è che non va? Dicevo però che tutti i sondaggi non dà vincente il centrosinistra, quindi c'è da chiedersi il perché. Non esiste, no, in tutti questi anni il centro-sinistra, lo dice uno del centrodestra, non è mai esistita una vera alternativa di governo, anche in base ad un programma. Io voglio fare un esempio molto chiaro. Io quando sento Bersani che dice alla Lega: bene, mi fate fuori Berlusconi, io vi voto il federalismo, io capisco perché gli italiani non hanno fiducia nella politica, perché il problema principale è quello di far fuori Berlusconi, non entrare dentro al provvedimento. Una discussione. Non è che dice modifichiamo il provvedimento e mi mandi via Berlusconi. Sì. Prima dice mando via Berlusconi. Sì, la precondizione. Sentiamo ancora Alberto da Napoli, Luigi da Pisa. Alberto da Napoli, se siete brevi, Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, volevo dare la mia. Sì, la dia. Che quanto riguarda, comunque si è capito chi sia. Non è che io sia un berlusconiano, però comunque si è capito che è un complotto per farlo fuori. È un complotto. Sì, io penso sì, che sia così, perché comunque complotto di chi? Un complotto di chi? Un complotto di tutta la genere della politica, perché comunque lui non è che fino adesso abbia fatto delle grandi cose. Comunque credo che se lui va via e si metta qualcun altro, non è che comunque la persona. Va bene, quindi lei dice, la traduciamo così: non si deve dimettere. Luigi da Pisa, buongiorno. Buongiorno, io vi dico perché si deve rimettere. Uno, sì, perché il fatto che sia stato eletto democraticamente non gli crea un alibi a fare ciò che gli pare. Due, sulla bugia della nipote di Bob Barak, secondo me molti della destra, che essendo anche alla Zanzara, sono imbarazzati nel giustificare la nipote di Bob Barak. E il terzo è il motivo politico, perché questo governo è ingessato sui problemi interni, non della sinistra, i problemi fra Berlusconi e Fini, i problemi interni loro, e non hanno governato il paese come Fini, andava governato. Più che tra Berlusconi e Fini ora dei problemi, i problemi suoi, diciamo, interni. Comunque grazie da Luigi da Pisa, con lei concludo perché ci fermiamo qui, ringraziando l'onorevole Osvaldo Napoli del Popolo della Libertà e l'onorevole Massimo Donati dell'Italia dei Valori. Detto che la percentuale è sempre quella, 65, scesa di un punto, 65% di voi dice si deve dimettere. Continuate a votare, ci seguite anche su Facebook, 24 mattino è la nostra pagina, siamo lì, venite a vederci, anche se Alessandro Longoni ancora la sua foto non l'ha messa, ormai latita. Comunque grazie a lui, con Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia con la sua penna nera. La linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina 7:20.